Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno dottoressa, pronto? Sì, sì. Cioè, ci siamo un po'. Qua siamo dottoresse, infermiere, sì, giornaliste, conduttrice. Mauro. Buongiorno, salve, ascolti, niente. Buongiorno, benvenuta. Dottoressa, grazie. Buongiorno nuovo e spero che sia buono anche per te. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Pancia, misurati la pancia. Borbotta, si irrigidisce, si gonfia, duole, spesso non sente ragione. Parliamo di pancia, non vogliamo occuparci oggi delle sue dimensioni quanto dei segnali che ci manda e che noi interpretiamo, specie se durano a lungo e si ripetono, come sintomi di disturbi tra loro molto diversi. Allora passiamoli subito in rassegna e poi con l'aiuto del nostro super esperto troveremo cause e soluzioni. Il gonfiore. Quando dici ho la pancia gonfia, dopo i pasti o in altri momenti della giornata? È una sensazione o devi allentare la cintura o sbottonare i pantaloni? Il dolore. È localizzato in un punto particolare o interessa tutto l'addome? Noti che si acuisce in concomitanza dei pasti o si manifesta di preferenza in occasione di eventi stressanti? La tensione. Ti capita di sentire la pancia tesa e contratta? Toccandola, questa sensazione è confermata o invece al tatto risulta normale? Il movimento. La tua pancia sussulta, si contrae e ti costringe a correre in bagno? E una volta assecondata e soddisfatta o dopo poco ti fa correre di nuovo? La pesantezza, alias la fatica a digerire, il classico peso sullo stomaco. Per te è una costante o un incidente di percorso? Se vi siete riconosciuti e volete saperne di più, chiamateci 800 24 00 24 o scriveteci al 349 238 6666. È probabile che vi siete riconosciuti in più di una di queste situazioni, non preoccupatevi, il nostro numero verde è già pronto e tra poco vi presenteremo anche il nostro super esperto che è tornato a trovarci. Oggi anche abbiamo un'altra sorpresa. Ah, così. Io invece so già chi potrebbe raccontarci che ha avuto o ha qualche mal di pancia. Certamente chi sta cercando lavoro in questo momento e anche chi vorrebbe darlo, ma magari per la natura dimensionale dell'azienda che gestisce fa un po' di difficoltà anche a proporre posti di lavoro a chi invece ne sta cercando. Pensiamo agli imprenditori, appunto, lo sappiamo, anche per loro i tempi sono duri, ne abbiamo parlato tante volte da questi microfoni in questi anni di crisi. Tenere il passo per loro non è stato facile, tanti hanno chiuso, ma molte imprese hanno resistito grazie anche a chi ha creduto in loro e ha investito in loro. Cercheremo di capire oggi quali sono i segreti e le indicazioni per puntare sulla piccola e media impresa anche nella ricerca del lavoro. È un mondo che spesso non prendiamo in considerazione come sbocco occupazionale. Scopriremo invece come il mondo della finanza guarda con grande interesse all'universo veramente ricco delle PMI italiane. All'800 24 00 24, allora vi propongo una convocazione aperta. Se dico PMI, a voi cosa viene in mente? Uno strappo ogni tanto, me lo concedo, a chi non è mai successo? Alla sera magari esci dal cinema, sei ancora sveglio, hai un buco allo stomaco, e allora è normale, vai al baracchino, lì al parco, da una parte un metronotte, dall'altra un travestito, e lì in bella compagnia un bel panino con la salamella, e ti fa: cosa ci metto dentro? Peperoni, cipolle, salse, ma sì, tutto, full optional. È fantastico, sempre ci piace molto. Adesso tra l'altro sta facendo uno spettacolo a teatro. Comunque non c'è bisogno di spuntini notturni, chi ne soffre conosce bene il problema, cioè l'esigenza a volte impellente di allentare la gonna o la cintura dei pantaloni per liberarsi da quella sorta di morsa che a volte sembra proprio togliere il respiro. Non è un problema di tagli, i vestiti non si sono improvvisamente ristretti, è la nostra pancia ad aver cambiato forma. Questo non ci piace, ma non è solo un problema estetico, perché lo sappiamo bene, chi l'ha provato lo sa, il gonfiore addominale, che tra l'altro interessa almeno una persona su tre, in modo particolare noi donne, si associa spesso ad altri disturbi, no? Tensione, peso, dolenzia. E se il problema persiste, ecco che le proviamo tutte, no? A volte peggiorando la situazione. Allora ci facciamo dare una mano dal professor Dino Vaira, gastroenterologo, ordinario di medicina interna all'Alma Mater di Bologna, che è tornato a grandissima richiesta, altro che. Buongiorno professore. Nicoletta, buongiorno Deborah, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Io mi sento adesso già più sgonfia. Sgonfiamo le pance di tutte le nostre radioascoltatrici e saranno tutte felici e ascolteranno sempre Radio 24. Meno male, io pensavo che fosse i vestiti. Soprattutto. Pensavo che fosse il mio armadio che restringesse i vestiti, guarda un po'. L'ho lavato male, forse l'ho messo in lavatrice. Professore, noi tutti la pancia, uomini e donne, no? La vorremmo piatta, scolpita, invece, come a farci dispetto, si rilassa, si modifica, cambia forma, diventa tondeggiante, si gonfia, duole. E insomma, allora ci aiuti lei in prima battuta a individuare il confine tra una situazione di normalità e una situazione che invece richiederebbe un controllino. Sinceramente è la sonnolenza che ci dà il limite. Quando abbiamo sonno subito dopo mangiato o quando mangiamo la classica insalatina e ci troviamo con il pancino gonfio come se avessimo mangiato il famoso cinghiale di Obelix e di Asterix. Va bene, quindi sonnolenza, ecco perché Deborah ride, sonnolenza e il gonfiore subito dopo la foglia di insalata. Esatto. Ecco, intanto 800 24 00 24, questo è un po' il confine tra normalità e necessità di fare qualche controllo. Professore, ci sono dettagli, no, che possono fare la differenza e io inizierei, se lei è d'accordo, a chiedere ai nostri amici di descrivere il gonfiore, o meglio a localizzarlo. Perché a volte interessa la parte alta, un po' in corrispondenza dello stomaco, in altri casi la parte bassa, direi sotto l'ombelico, altre volte invece interessa tutta la pancia, un po' la pancia da bevitore di birra, no? Ah, sì. Me lo vedo così, un pancione tutto gonfio. Che cosa dicono queste tre diverse localizzazioni? L'intestino. Questa è veramente la cosa fondamentale, cara Nicoletta. Giusto per dare un'idea a chi ci ascolta, noi stiamo parlando fondamentalmente di un intestino che è lungo 3 metri e quindi è molto grande questo intestino. Quindi dobbiamo assolutamente fare in modo che questo intestino funzioni, in particolare il piccolo intestino, che è l'intestino tenue, e poi l'intestino grande, che è quello, il famoso intestino grasso, che è quello responsabile appunto del gonfiore della pancia. Quindi occhio all'intestino, e spesso noi pensiamo a volte ho lo stomaco un po' gonfio, invece possiamo dire, professor Vaira, che il gonfiore della pancia è quasi sempre un problema intestinale? Ma assolutamente sì, perché il povero stomaco si prende sempre tutte le colpe, ma poverino non ha poi tutte queste colpe di cui noi parliamo. In realtà è la flora batterica dell'intestino, quindi i batteri che creano queste benedette o maledette bollicine di gas che ci danno questo tipo di problema. Lei pensi per esempio che il nostro tratto gastrointestinale è lungo 7 metri, lei cara Nicoletta o la Deborah o io abbiamo un bel campo da tennis dove possiamo palleggiare. Lei si figura in questi 7 metri cosa ne può succedere? Ma batteri, quindi che anche Deborah, lì, che è più alta e molto più alta di me, 14 abbiamo metri. 7 metri pazzesco, sia io che lei. La lunghezza è standard, è un mondo veramente affascinante comunque. Esatto. Molto. Allora, avevamo promesso due sorprese. Okay, la prima è il ritorno del grande professor Vaira, che piace ai nostri ascoltatori, che stanno già chiamando il nostro numero verde per superare la barriera rosa. Diamo subito spazio, naturalmente. Tra poco vi diamo spazio, mentre la seconda sorpresa riguarda... Me la svelo io, mi dai questo onore. Oggi e per i prossimi due mercoledì sono ancora in palio tre coppie di biglietti del Love Piano Solo Tour 2015 del grandissimo Giovanni Allevi. Oggi in palio abbiamo la data di Ravenna, dove il maestro Allevi si esibirà il 19 di aprile, ma per ricevere i biglietti dovete rispondere al nostro domandone, quindi riassegno la palla alla nostra consulente scientifica. Allora, da dove nasce il senso di sazietà? Dallo stomaco, dal cervello o dall'intestino? Il primo che ci risponderà correttamente alla domanda, argomentandola a giudizio insindacabile del nostro esperto, riceverà una coppia di biglietti per la data di Ravenna, ma c'è anche un premio di consolazione per chi risponderà correttamente, ma magari è troppo lontano, no, per andare a Ravenna, e quindi apriremo la libreria di Cuore e Denari. Tra l'altro il dottor Vaira dovrebbe farci arrivare, maledetto il giorno in cui ti ho incontrato. Arriverà con la velocità della luce. Ecco, perché così noi vogliamo darle ai nostri ascoltatori un grande successo, perché parla di un ospite indesiderato che hanno scovato un batterio da Nobel. 800 24 00 24. Professore, noi oggi mettiamo le nostre pance nelle sue mani. Lei ha promesso che alla fine puntata avremo tutte le indicazioni utili per tornare con una pancia piatta, non scolpita, perché lì ci vuole un po' di fatica, tornerei ad inquadrare un po' il problema andando al fattore tempo. Partiamo dal momento in cui si manifesta più frequentemente il problema: è dopo il pranzo, ma in alcuni casi è durante la mattina, per alcuni è durante la mattina, se non addirittura già al risveglio. Cosa ci indica il criterio del tempo rispetto alla natura del disturbo? Questa è una bellissima domanda. Posso ricordare a tutti i nostri radioascoltatori che per il nostro, io sono a Bologna, quindi per forza devo parlare del tortellino. Il nostro tortellino per scendere nello stomaco ci mette 10 secondi, per lasciare lo stomaco ci mette 3 ore, per lasciare l'intestino tenue ci mette 7 ore, per andare nell'altro grande intestino ci mette 30 ore. Questi sono tempi biblici che permettono sì al nostro organismo di assumere tutte le meravigliose primizie e delizie del tortellino, ma fa sì anche che il nostro intestino produca questi famosi effetti fermentativi, cioè questa produzione di gas. In poche parole, l'intestino che non evacua crea questa famosa bolla d'aria, crea questa famosa pancia grande. Quindi un rallentato svuotamento sia dello stomaco che dell'intestino è uno dei casi più importanti e più frequenti di pancia gonfia. Deborah, vogliamo leggere qualche messaggio al 349? Sì, perché ce ne sono diversi. Esatto, eravamo proprio indecise a quali dare la priorità. Allora, c'è intanto questa situazione di Luigi che ci racconta se vuole sapere, anzi, dal dottor Vaira, se possibile motivo del forte gonfiore di pancia dopo un'ora di nuoto, quale può essere: vera e propria aria nella pancia che devo assolutamente far uscire con evidente disagio. Immagino. Infatti, poi qualcuno che vuole sapere se è vero che la birra gonfia come palloni. Manu, quindi andiamo anche ad una donna: al me il gonfiore sembro incinta, sonnolenza quando mangio pasta con farina bianca o pizza o altro, se mangio integrale tutto normale, non ho altri disturbi. Quasi che sei fatta la diagnosi. Esatto. Professor Vaira, da dove cominciamo? Dal nuoto? Il nuoto è legato fondamentalmente al fatto che consumiamo energia, ma è una cosa meravigliosa il nuoto, quindi più nuotiamo più stiamo bene, quindi in assoluto il nuoto è una cosa miracolosa sia per i radioascoltatori ma per le radioascoltatrici, per tirare via l'aria dalla pancia, e quindi questa è una delle piccole classico segreto di Pulcinella, per cui una mezz'oretta di nuoto, di acqua gym o di hydrobike, qualunque sport fatto in acqua è meraviglioso per le nostre pance, sia dei maschietti ma innanzitutto per le nostre amiche donne. Quindi il problema non è il nuoto, così possiamo dire, no, anzi. Assolutamente no, continuasse tranquillamente a nuotare. La birra. La risposta è sì, perché fermento ovviamente, tenga presente però ancora una volta parliamo di quantità. Io sono stato 4 anni in Inghilterra e per loro 2 pinte di birra è proprio il nostro goccino di liquore, ecco, quindi ancora una volta dipende dalla quantità, non è certo una birra quotidiana che ci dà questo tipo di disturbi, ma ancora una volta nel momento in cui questa birra va a inserirsi in un intestino pigro, certo che ci dà questo maledetto gonfiore di pancia. 800 24 00 24, ricordate il vostro domandone, da dove nasce il senso di sazietà, per portarvi a casa una coppia di biglietti per il concerto di Allevi nella data di Ravenna del 19 di aprile. Esattamente, ti sei ricordata tutto senza leggere la scaletta, incredibile, io cercavo già i fogli per darmi un aiuto, ma intanto raccontateci che cosa, quali messaggi vi lancia la vostra pancia, se oltre a essere gonfia duole avete questa tensione dolorosa, avete avvertite dei dolorini, perché professor Vaira, volevo anche chiederle se questo gonfiore può essere anche dovuto allo stress, no? Perché sappiamo che quello che diceva Calindri, no? Il logorio della vita moderna interferisce su molti nostri stati di malessere. Allora, ci aiuti un po' a capire se è vero che la pancia gonfia può avere anche una lettura psicosomatica. E vuole che il grande Calindri non abbia ragione? Io lo chiedo a lei. Ce lo ricordiamo tutti quando eravamo piccolini, in mezzo al traffico, bello come, non si può dire come, che si beveva il suo liquore. Lo provassi adesso a farlo, dopo 2 spot lo ricoverano col 118 immediatamente. Dunque, è certo che lo stress è fondamentale. Noi abbiamo questo meraviglioso nervo, che è il 10° nervo cranico, che è il vago, che ci aiuta moltissimo, che ci fa battere il nostro cuoricino, quindi ci fa sentire l'emozione quando vogliamo bene a una persona, ci fa digerire bene, quindi agisce sullo stomaco, perché ci aiuta a secernere l'acido, ci fa andare di corpo, quindi agisce meravigliosamente bene sull'intestino. Però quando siamo arrabbiati, quando siamo stressati, quando abbiamo molti pensieri, questo nervo vago si scarica come veramente come delle vere e proprie scosse elettriche, quindi a quel punto tutto l'apparato gastrointestinale in realtà si contrae in maniera convulsa e quindi crea la possibilità di creare questa, mi perdoni il giro di parole, miliardi di bollicine di gas. Quindi lo stress interferisce in maniera maledettamente negativa sulla nostra pancia. Abbiamo i nostri ascoltatori, certo, che aspettano. Cominciamo con Franco della provincia di Vicenza, il nostro primo ascoltatore di oggi. Buongiorno Franco. Buongiorno dottore, buongiorno signore. La mia domanda è molto semplice. Un ciclo di fermenti lattici vivi può funzionare? Come cura? Come cura, grazie mille. O come prevenzione? Anche. Tutte e due le cose. Grazie Franco, così ci aiutiamo. La risposta è sì. I fermenti comunemente detti, ma in realtà il nome scientifico sono i probiotici, ci aiutano moltissimo. Una miscela di lattobacilli, per esempio bifidobatteri, ci aiutano da morire, perché sono i famosi batteri buoni che abbiamo, quindi noi immettiamo delle legioni romane, quelle dell'impero romano, quindi con belli forzuti, e ci aiutano sicuramente a riequilibrare la nostra flora batterica e quindi l'intestino è più felice, fa molti più parti, invita un mucchio di gente e sono tutti più felici. Andiamo a sentire anche Maria Letizia da Perugia. Tra l'altro, professor Vaira, iniziano ad arrivare i messaggi grazie alle vostre trasmissioni, ascoltando il professor Vaira sono riuscito a individuare e radicare l'Helicobacter. Eradicare proprio, esatto. Scrivono, e quindi ci sarà mica anche lo zampino dell'Helicobacter, ma rispondiamo dopo. Maria Letizia, buongiorno. Buongiorno professore, buongiorno a tutti. Vorrei chiedere se è vero che iniziando un pasto con un'insalata possiamo avere un senso di sazietà e quindi dar luogo a una buona dieta dimagrante. Grazie. Lei, Maria Letizia, fa così? No, però il mio farmacista mi ha suggerito di iniziare i passi in questo modo. Guarda, un pezzettino di frutta. Qualcosa di crudo, colorato, e fresco, come dice il dottor Speciani. Professor Vaira, un'insalata. La cultura anglosassona, americana, vi ricordate? Andate a New York e dicono buongiorno, io vorrei mangiare, tac, una bella insalata. Che toglie, che come qualcuno dice toglie anche la più grossa, sottinteso la fame. L'idea appunto di creare un'alga. La nostra meravigliosa dieta mediterranea a tutt'oggi è la migliore dieta del mondo, punto. Non esiste nient'altro di meglio che la nostra dieta mediterranea. Il consiglio che purtroppo noi diamo e noi stessi purtroppo non facciamo è di mangiare quando ci pare e piace a colazione, di fare un pasto piccolo a pranzo e di mangiare pochissimo la sera. Ciò che noi facciamo è esattamente il contrario di quello che voi ci dite. Ma infatti, infatti poi siamo qua. Problema. 800 24 0024, adesso andiamo a sentire i mercati. Volentieri. si sgonfiano come le nostre pance. Sono un po' sgonfiati oggi, vedi? Li vedo proprio un po' piattini. Vedi, avranno seguito i consigli del professor Vai. Ci saranno l'helicobacter. Cuore e denari. Non sarà un'avventura. Forse mai come negli ultimi anni i termini impresa, avventura sono stati sinonimi. La crisi ha messo a dura prova le piccole e medie imprese che in molti casi hanno chiuso, in molti altri casi hanno saputo reinventarsi e quindi resistere. Poi tante start-up sono nate proprio negli anni di crisi. In che modo le piccole imprese sono un'opportunità in cui può valere la pena di investire sia nella ricerca del lavoro sia dal punto di vista finanziario? Ne parleremo tra poco nella pagina di Denari. Intanto rilancio la mia convocazione, per dire così, aperta oggi. Se dico PMI, a voi cosa viene in mente? C'è già chi ci scrive la definizione, piccola e media impresa. Sforziamoci un po' di più, raccontateci che cosa rappresenta questa tipologia di azienda sul vostro territorio, se ci avete lavorato, ci lavorate come imprenditori o dipendenti. Testimonianze apertissime stamattina all'800 24 0024. Eccolo qua, il nostro amico Giovanni Allevi, sì, con My Family, tratta dal suo nuovo album Love. Abbiamo in paglio, l'abbiamo detto, una coppia di biglietti per la data di Ravenna, dove Giovanni Allevi si esibirà il prossimo 19 aprile col suo Piano Solo Tour 2015. Per ricevere la coppia di biglietti, possibilmente dovete, secondo me, abitare vicino a Ravenna, nei dintorni. Sarebbe utile avere un amico che abita lì e che volete stupire, oppure mandarli al professor Vaira, che da Bologna potrebbe fare un salto. Professore, che dice? Assolutamente sì. Allora, vi abbiamo chiesto da dove nasce il senso di sazietà: dallo stomaco, dal cervello o dall'intestino? Il primo che risponderà correttamente si aggiudicherà questa coppia di biglietti e noi torniamo ad occuparci della nostra pancia. Professor Vaira, lo stress può dire la sua, l'abbiamo detto. Sicuramente anche l'alimentazione. Molti ascoltatori ci stanno scrivendo: bevo il cappuccino e mi si gonfia immediatamente la pancia. Un altro ascoltatore ci scrive: pur non essendo intollerante al glutine, quando mangio prodotti senza glutine la mia pancia è bella piatta. Altri che ci dicono: mangio l'insalata e pum, una foglietta di insalata. Non ci credo, perché una foglietta di... Poi noi però prendiamo... c'è anche chi dice, per esempio, me lo raccontano anche degli amici: mangio solo la frutta per pranzo e mi gonfio. Anche lì altro tema, non esagerare con me. Quindi ciascuno di noi ha una sensibilità particolare nei confronti di un alimento, di una categoria di alimenti. Professore, quando noi facciamo questa prova, proviamo sul campo, questa associazione, che dobbiamo fare? Eliminiamo? Riduciamo? No, facciamo qualcosa adesso veramente di tipo medico, perché ovviamente ognuno di noi è diverso. Quindi innanzitutto facciamo delle prove allergiche oggettive. Non facciamo tutte queste prove allergiche sulla cute, ma facciamo dei banali ma attendibilissimi RAST, sia alimentari che inalanti, ma innanzitutto chiediamo ai nostri medici, che lo sanno benissimo, di farci dosare le IgE totali, le immunoglobuline della classe E totali. Sono in assoluto il parametro più attendibile per capire se abbiamo delle allergie. Questa è la cosa fondamentale. Ovviamente non posso non citare il mio, tra virgolette, amico, cioè far sì che non ci sia questo benedetto batterio, quindi fare sempre un test sul respiro per avere la certezza che non c'entra l'Helicobacter. Dopodiché l'altra cosa perché può dare gonfiore, vero professore? Sì. L'altra cosa che dobbiamo, è l'ultima cosa, quindi sono tre cose: un esame del sangue, un test sul respiro e la classica meravigliosa ecografia dell'addome superiore, che ci va a indagare la colecisti, che ci va a indagare il fegato, che ci va a indagare il pancreas, che ci va a indagare la milza, che ci va a indagare i reni, che ci va a indagare l'intestino in maniera completamente non invasiva. Quindi tre mosse per venire a capo del problema, senza rischiare di cure fai da te che possono peggiorare la situazione, professor Vaira. Assolutamente, adesso ovviamente stiamo parlando un pochino più seriamente. Professore, abbiamo Mariangela dalla provincia di Milano e subito dopo voglio leggere il messaggio di un ascoltatore che ci chiede come risvegliare questo intestino sordo a tutte le sveglie, dato che, professore, come ci ha scritto anche un altro ascoltatore, lei ha detto che è un intestino pigro, no? Come si fa che sta alla base del nostro gonfiore addominale? Allora come si fa a dargli una mossa? Ma intanto Mariangela, buongiorno. Buongiorno professore, buongiorno alle mie amiche che mi fanno sempre tanta compagnia. Grazie Mariangela, buongiorno a lei. Buongiorno Mariangela. Senta, io ho 60 anni, una da ragazzina. Molti anni soffro di questo addome enorme, le ho provate tutte. Ho eliminato la verdura, ho eliminato la frutta, quelle crude soprattutto, faccio i passati di verdura, faccio cuocere la frutta cotta, ho eliminato il glutine, ho eliminato il niente. Latte. Sì, insomma le ha fatte non tutte. Non so più cosa mangiare. E cosa mangiare. Brava. Mi ritrovo veramente in difficoltà. Professor Vaira, qua ci vuole una mano. Cose negative, ha fatto tutte le cose sbagliate del mondo la nostra amica Mariangela di 60 anni. Sì. Non bisogna eliminare, bisogna capire che diavolo c'ha che non va, quindi identificare quello che non c'è, identificare quindi ed eliminare solo quello che ci dà fastidio. Quindi queste diete prive di A, B e C sono assolutamente qualcosa di abuso, proprio da abborrare, da non fare. Dobbiamo, come le dicevo poc'anzi, fare un banalissimo esame del sangue, identificare se c'è una ipersensibilizzazione, detta in soldoni, un'allergia a qualche alimento, a qualche inalante, allora sì che eliminiamo quel inalante, quell'allergene. Ma questo tipo di fai da te, come d'altronde lo testimonia la signora Mariangela, non porta a nessun tipo di soluzione. Allora, vediamo se la cavano meglio altri ascoltatori che ci suggeriscono anche dei rimedi per la pancia gonfia, però contrastanti. Ad esempio, professor Vaira, c'è chi dice bisogna eliminare le fibre perché le fibre gonfiano, e lo stesso un altro ascoltatore ci dice una dieta ricca di fibre aiuta l'intestino a tenersi sveglio e quindi sgonfia la pancia. Grande capitolo delle fibre, che sappiamo non sono tutte uguali. Professor Vaira, se abbiamo questa tendenza ad avere l'addome che si gonfia, le fibre le assumiamo o no? E quale tipo? Le fibre ci fanno bene, ma ancora una volta dobbiamo tentare di capire cosa diavolo c'ha la nostra pancia. Non dobbiamo fare il fai da te. Tentiamo di capire, abbiamo adesso come adesso dei mezzi meravigliosi, non invasivi, per capire cosa c'è. Non è opportuno, come dire, dare un consiglio a 360 gradi, perché qualunque nostra pancia è diversa da quella della nostra vicina, del nostro vicino. Quindi non c'è ombra di dubbio, il consiglio generale che possiamo dare a chi ci ascolta è che la fibra fa bene, ma innanzitutto fa bene la famosa acqua. Lei si ricorda che sono un patito dell'acqua, naturale, non gasata, non fredda, quello del rubinetto è perfetto, così adesso ci odiano tutti, bevuta a piccoli soffi. Poi noi veniamo a lavorare per da lei. Lo so, ma io vi accolgo alla mamma, non c'è problema, vi accolgo, non c'è problema. Ecco, quindi in realtà l'unico consiglio vero è l'acqua. Dopodiché, finita l'acqua, finita un po' di attività sportiva, come dicevamo poc'anzi, possibilmente in piscina, idrobike, acqua gym, nuoto, qualunque attività sportiva in acqua, dobbiamo avere la pazienza di fare questi 2-3 esami banali che ci identificano qual è il problema. Una volta identificato il problema, la soluzione è veramente semplicissima. E la nostra pancia torna piatta, esatto. Tonica. Poi, insomma, per gli addominali bisogna lavorarci un po'. Abbiamo Rodrigo e Piero. Sì, cominciamo con Piero, e si sono candidati i nostri ascoltatori naturalmente per il domandone, perché vogliono andare a vedere Giovanni a Levi a Ravenna. Piero, buongiorno. Allora, dove si annida il senso di sazietà? Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Io penso che si annidi nello stomaco. Allora, sia lì Piero, sentiamo Rodrigo da Bologna, terra del tortellino. Buongiorno. Che ci mette tre giorni essere digerito, abbiamo scoperto stamattina. Rodrigo, buongiorno, secondo lei il senso di sazietà? Buongiorno. Da dove buongiorno arriva? Buongiorno, vedi che c'è l'accento bello. A mio avviso arriva dal cervello. Allora, vediamo, Rodrigo cervello, Piero stomaco, professor Vaira, lei è il nostro super esperto. No, meno male che non lo conosco questo Rodrigo di Bologna, sennò a lei subito ci dicono che eravamo in combutta. Ecco, perché allora capiamo che Rodrigo ha dato la risposta giusta. E lì c'è la camera di regia, wow. È il fondo della camera di regia che succede tutto. Quindi non ce l'abbiamo solo noi la regia. Con Carmelo Lauricella, ce l'ha anche. Allora, Rodrigo si va ad ascoltare il concerto di Giovanni Allevi, però Piero, che ha partecipato e è intervenuto, certo. E anche un po' lo stomaco c'entra, professor Vairo. C'entra, certo. Almeno per dare... per ricevere a casa un libro. Se comincia a fare gru gru gru gru perché è vuoto, che borbottino. Professor Vaira, noi vorremmo averla qui un giorno in studio per fare delle foto con lei. Esatto, smetta di prometterlo e basta. Va bene, allora noi l'aspettiamo. Grazie professore. Grazie a voi e a tutti. Grazie gli molte. Allora adesso invece perseveriamo col mal di pancia, perché tanti piccoli imprenditori ce l'hanno avuto, ce l'hanno. Ti vuoi inventare qualcos'altro? Mal di pancia intollerabile, inscrollabile, irriducibile. Ma guarda, adesso, ma che ideona che ti è venuta, pazzesca. Adesso le strade che così... Cuore e denari. Sembra essere un'impresa eccezionale anche l'incontro fra domanda e offerta nel mondo del lavoro, e poi ci sono le piccole e medie imprese, anche loro sono spesso eccezionali, o meglio sono delle eccellenze, ma noi abbiamo trovato un altro modo per definire PMI. Dopo la puntata con il professor Vaira ci è venuto naturale. Abbiamo una PMI fantastica, dobbiamo dire perché? Certo. Una pancia meno infastidita. Eccoci qua. Eccoli qua. Questa non ve l'aspettavate. No, guarda, ogni giorno veramente Cuore e Denari sperimenta in quanto a creatività delle strade nuove, poi imbattibili, quando, direi. Poi quando verranno a portarci via, non sentire tu. Sento già un suono di un'ambulanza qua nel sottofondo. Allora, insomma, noi parliamo invece di piccole e medie imprese. In questa seconda parte di Cuore e Denari, piccole e medie imprese che hanno bisogno di stare sul mercato, hanno bisogno di svilupparsi dal punto di vista delle idee, dei progetti di business, qualche volta non ce la fanno solo con le loro forze. Per cui soprattutto gli imprenditori hanno avuto molti mal di pancia, dei quali abbiamo parlato nella prima parte del programma. Li hanno avuti con il sistema bancario che ha fatto mancare loro il credito negli anni più delicati della crisi. In certe frangenti, quelle più capaci e resistenti sono riuscite appunto a tenere di fronte alla crisi, perché hanno trovato modalità diverse di finanziarsi e svilupparsi, e quindi hanno valutato fondi di investimento, il mondo del private equity e del venture capital, sono tutte parole complicate che stamattina vi spiegheremo, tutte modalità alternative al credito bancario che hanno permesso che lo scheletro produttivo del nostro paese si mantenesse ancora attivo e anzi riuscisse a conservare tutta la sua eccellenza. Perché ne parliamo? parliamo oggi, perché spesso magari ci capita di sentire anche intorno a noi di persone che non valutano nel modo corretto le piccole e medie imprese. Qualche volta c'è anche un po' di pregiudizio, passatemi questo termine. Ci sembra che un'azienda più piccola sia un'azienda meno attraente o appetibile anche per lavorarci. E invece nel mondo delle PMI c'è tutta una serie appunto di eccellenze che è di grande interesse anche per la finanza, al punto che anche la finanza guarda appunto a questo mondo come, come dire, modalità di investimento. Di tutto questo si parla domani qui al Sole 24 Ore, in questo evento che non è solo Milano centrico ma interessa certamente tutta Italia, perché lo sappiamo, le PMI sono disseminate ovunque, fanno la ricchezza del nostro territorio. Mi riferisco al secondo forum della piccola e media impresa, anche se sarebbe più corretto forse chiamarlo Back to Work Expo. E così Carlo Bassi, amministratore delegato di Back to Work 24, ormai amico di Cuore Denari. Amico di Cuore Denari. Grazie a tutti, grazie a voi, grazie alle radioascoltatori. Sì, è così, si chiama Back to Work Expo, ma è un forum tutto interamente dedicato. Io toglierei medie, direi le piccole, perché la verità è che il grande oceano di opportunità oggi si va a scovare in aziende al di sotto dei 10-8 milioni di fatturato, al di sotto dei 10 addetti, quindi veramente al di sotto di quelle che vengono considerate per tradizione medie. Il grande successo che abbiamo avuto nella prima edizione di novembre è dato proprio dal fatto che, in maniera sorprendente... Ah, quindi lo avete proprio riorganizzato in 3 mesi? In 3 mesi l'abbiamo riorganizzato onestamente per la quantità di richieste, ma che non venivano solo dal mondo delle aziende, ma che veniva da chi aveva denaro da investire. Quindi la richiesta è stata talmente impellente che ci siamo trovati dal 18 novembre, prima edizione, al 5 marzo a volerne organizzare un altro, e sappiamo già che ce ne sono molti altri in fila che vorrebbero, quindi guardate, non a testimonianza solo della bravura nostra, lo dico, ma a testimonianza di una necessità, esigenza che il Paese ha portato e ha fatto emergere, cioè necessità, esigenza e opportunità, il fatto che la piccola impresa è diventata oggetto di interesse finalmente del capitale, dell'investimento privato, dell'occupazione, cioè è una soluzione occupazionale che fino a qualche tempo fa, possiamo dirla usando parole, veniva assolutamente disdegnata. Assolutamente, tu lo hai sempre detto tutte le volte che hai partecipato a questo programma. Nicoletta. Posso leggervi, e voglio raccontarlo soprattutto a Carlo, un nostro ascoltatore ci scrive PMI, abbiamo chiesto, lui ci ha scritto piccole meraviglie italiane, e credo che traduca bene bellissimo quello che è, no, in sintesi il posso tuo intervento. Dobbiamo chiedere a Roberto se vuole. Perché è veramente... E io aggiungerei, insomma, queste abbiamo parlato appena 5 minuti, e insomma quello che posso dire io è che davvero questo non è un paese perduto, nonostante tutti i detrattori che ci scaricano sempre addosso, un po' lo fanno anche con noi media, tante polemiche, tante contestazioni su tutto che non funziona. Invece per fortuna che abbiamo anche questo mondo. Stavi anche tu leggendo di Ciro. Infatti ho visto che te hai caduto l'occhio. La leggiamo subito. Intanto diciamo a Ciro che il nostro numero verde è a disposizione. Esatto, anzi magari lo chiamiamo noi, però cominciamo già ad anticipare la sua storia. Allora, sono un ragazzo di 27 anni, quindi molto giovane. Insieme ad altre due ragazze più o meno coetanee siamo proprietarie di un marchio di borse. Carino, non ha detto l'età delle amiche. Per quanto mi riguarda, le piccole e medie imprese sono il fulcro centrale dell'economia italiana, ma allo stesso tempo subiscono una pressione incontrollabile che tende a soffocare ogni sogno. Fortunatamente noi abbiamo un grande vantaggio dato dalla vendita all'estero, che spesso viene valorizzata e riconosciuta molto di più rispetto a quanto venga fatto in Italia. Avrei molto di piacere di parlare con voi al telefono, anche noi Ciro, magari Ciro, ti chiamiamo immediatamente. Carlo, però ha centrato perfettamente Ciro. Scusate se vi ho interrotto. No, assolutamente. La cosa clamorosa, ma che a me, io mi occupo di Back to Work, e Back to Work si è occupato sin dall'inizio, da quando è stato creato, delle piccole imprese, così come del capitale umano. Altro argomento che questo paese tende a non sottolineare adeguatamente. Le imprese si fanno sì col denaro, ma se non c'è capitale umano adeguato, le imprese non si fanno, non crescono. Questo ce l'ha insegnato i nostri genitori. Gli imprenditori degli anni 50 erano in primis uomini, non è che avevano i fondi di investimento, le banche che li rincorrevano per fare le nuove imprese. Oggi siamo tornati molto a queste condizioni, ma la cosa straordinaria è che noi abbiamo circa 3 milioni di piccole imprese. Allora, si parla sempre delle medie e delle grandi, anche quando si parla di occupazione, non voglio entrare in polemica, ma il Job Act a queste piccole imprese non cambia la vita, perché sono imprese che non hanno numeri, 10 sotto i 10 addetti, 15 addetti, non contano, rappresentano il 95% del PIL di questo paese, l'80% dell'occupazione, signori, l'80% vuol dire che il restante è sono nelle briciole. Sono briciole. Cuore e denari. Perché tutto cambierà, cambierà, per ogni vita che nasce, cambierà, per ogni albero che fiorirà, cambierà. I cambiamenti sono continui, ci mettono di fronte a prove continue. Oggi, nella seconda parte di Cuore e Denari, stiamo parlando delle piccole e medie imprese. Non c'è bisogno di dire a quali radicali cambiamenti il nostro tessuto imprenditoriale è stato sottoposto negli ultimi anni, ma per fortuna resiste questo esercito delle eccellenze italiane, rappresentato appunto dalle PMI italiane, delle quali stiamo parlando con Carlo Bassi, amministratore delegato di Back to Work 24, e fra un po' vi racconterò anche che cosa fa Giuseppe Cordone, socio di Team Up Work, che Carlo Bassi conosce bene. Tutto questo per presentare questo grande evento che si svolge domani anche qui al Sole 24 Ore, del quale abbiamo parlato nella prima parte del programma, ma soprattutto vogliamo sentire le vostre storie, le vostre considerazioni su questo argomento, perché abbiamo capito, anche se può sembrare come dire magari un tema un po' lontano da Cuore e Denari, in realtà lo spirito di servizio lo possiamo inserire, anche ritrovare anche nel contesto appunto di questo tema. E allora vi chiediamo oggi, proprio per coinvolgervi, intanto nella piccola e media impresa, cioè avete lavorato, ci lavorate, siete piccoli imprenditori o dipendenti di una PMI? Oppure vivete in un distretto italiano particolarmente noto proprio per una tipologia di prodotto, e le piccole e medie imprese sono importanti quindi sul vostro territorio. Una piccola impresa si intreccia con la storia della vostra famiglia? Oppure in fondo uno dei vostri sogni nel cassetto è proprio quello di lavorare in una piccola media impresa, perché state cercando lavoro, perché la dinamica di una grande impresa, possiamo dirlo, vi ha stancato, non vi corrisponde, vi sentite un po' estranei. La crisi, ma avete assistito agli sforzi fatti da un piccolo imprenditore per resistere ai venti davvero di tempesta degli ultimi anni? Qualcuno non ce l'ha fatta, lo sappiamo, peraltro con Carlo Bassi facevamo prima qualche numero, parlavi di 3 milioni di piccolissime imprese, forse sono anche un po' di più, forse sono sì, qualcosa forse 3 che milioni e mezzo, ma sapete quando si passa ai milioni le 500, 200 poi poco spostano. La verità è che tutto il nostro paese regge da sempre, quindi non solo da oggi, da sempre. La propria esistenza e anche il proprio futuro, e su questo invece c'è stata un po' di miopia su queste piccole imprese. Miopia che vorrei però dire, perché si può correggere, si può correggere, sinceramente si può correggere. Vorrei anche dire, attenzione, non è stata solo responsabilità dello Stato, sì, della politica, delle tasse, così. Miopia è stata anche di molti piccoli imprenditori che hanno preferito la loro dimensione, che gli consentiva di avere quello che avevano ottenuto e che non avevano poi granché voglia, guardate che questo è molto comune, di investire per la crescita. Quindi non erano imprenditori fino in fondo, no? Questo è stato un fenomeno diffusissimo anche in questo paese. Anche quella è una vocazione, naturalmente. 800 24 00 24, numero verde a vostra disposizione. Prima di sentire Ciro da Orvieto, che abbiamo evocato prima, abbiamo letto la sua storia, adesso ce la facciamo raccontare direttamente dalla sua viva voce. Abbiamo anche Sara da Torino, ci fa molto piacere avere anche il contributo femminile su questo argomento. Poi Marco della provincia della Monza e Brianza, ma devo salutare anche Giuseppe Cordone, perché la storia di Team Up Work si intreccia inevitabilmente con quella di Back to Work 24. Parliamo di storie qua delle Sole 24 Ore, ma in realtà di qualcosa di molto più profondo e interessante. Dottor Cordone, allora, il grande problema di queste piccole e medie imprese degli ultimi anni, che sono state travolte dalla crisi del credito prima che dalla loro e della crisi economica in generale, no? In certi momenti il sistema bancario, veramente abbiamo avuto l'impressione che le volesse un po' cancellare dal nostro territorio, perché hanno letteralmente abbassato la serranda del credito sentito e hanno detto: sapete che c'è, noi non finanziamo più niente. In certi momenti le imprese avevano bisogno proprio per mandare avanti la vita quotidiana, pagare gli stipendi, pagare i contributi, più che di sviluppare ulteriormente il proprio business. E proprio in questi anni di difficoltà così dirompente si sono fatti avanti canali alternativi al credito bancario, e qui appunto possiamo raccontare la storia di Team Up Work. Quali sono le alternative al credito tradizionale su cui le PMI hanno potuto contare per resistere e possono contare adesso per svilupparsi? Sì, buongiorno a tutti. Oggi c'è un'offerta molto più variegata che in passato, ovviamente. Ci sono molte entità che sono state costruite, che si occupano di finanziare in vari modi le imprese, ma questo processo di trasformazione è molto lento e rigido. Non è facile per un imprenditore parlare con chi gestisce i fondi. Ci sono stati dei cambiamenti che hanno portato delle differenze, hanno allontanato l'imprenditore dal finanziatore. E quindi quando parliamo di una realtà come Team Up Work, appunto, che magari ce ne sono anche altre sul territorio, in sostanza che cosa fate nel concreto, oltre ad andare a parlare con questi imprenditori che appunto vorrebbero cercare qualcosa di alternativo alla chiacchierata con il direttore di banca per capire se magari amplia la disponibilità di un fido o un finanziamento aperto appunto per appunto sviluppare magari un business che vuole allargarsi ai mercati internazionali? Ma noi semplicemente facciamo una cosa: ascoltiamo l'imprenditore, cerchiamo di capire quello che di cui ha bisogno, quello che vuole, facciamo in modo che sia possibile liberarlo dagli impegni che ha, quelli meno importanti ovviamente, quelli di routine, cerchiamo di fargli mettere tutta la sua energia nell'impresa, negli aspetti più importanti dell'impresa. Quindi possiamo dare molti servizi, noi accordi bancari, possiamo dare capitale, manager di supporto per lo sviluppo delle reti commerciali o supporto per sviluppare mercati esteri. Noi cerchiamo sempre un mix giusto che permette alle imprese che hanno dei limiti, come anticipava Carlo, anche su scelte imprenditoriali, diamo soluzioni per cercare il mix giusto. È vero che qualche volta quando voi andate a chiacchierare con questi imprenditori vi capita di trovare anche davanti a voi appunto imprenditori che non sanno bene, che sanno che è necessario fare un cambiamento, cambiare il proprio approccio, appunto la propria strategia per continuare a stare sul mercato, ma non sanno bene qual è la ricetta giusta per potersi appunto mantenere in maniera adeguata. Quali sono i limiti? Che ci può raccontare qualche storia imprenditoriale di queste che incontra Cordone? Sì, certo. I limiti sono proprio nel linguaggio. Sono degli imprenditori che sono abituati a vivere su un tessuto che è stato cucito su un'idea imprenditoriale che non è uscita da un'università, da uno studio legale, e quindi hanno difficoltà a coniugare il linguaggio proprio dell'impresa con il linguaggio del finanziatore di oggi, che ahimè si preoccupa soprattutto di gestire il rischio. Far parlare a un imprenditore che si occupa di costruire nel miglior modo possibile delle barche, delle biciclette, è sempre molto difficile. Carlo Bassi voleva sì, no, volevo commentare due note. Ovviamente io conosco bene Giuseppe e il lavoro che fa Team Up Work, anche perché Team Up Work nasce un po' come da costo voi, cioè, da Back costo Work, ma lo dico per sottolineare un aspetto che è fatto da un gruppo di manager che si erano presentati a Back to Work, che si sono messi insieme, devo dire con curriculum molto importanti, non sto a citarli, con l'idea che dopo aver fatto o facendo tuttora un mestiere da grande manager, anche per loro poteva essere interessante guardare la piccola impresa apportando tutte le loro competenze, che spesso sono non tecniche ma molto manageriali, con l'idea che loro possono anche portare del contributo non solo in termini di capitale, perché Team Up Work è anche disposta a investire nelle piccole imprese, ma anche di quel sostegno per creare l'ambiente adatto attorno all'impresa per uscire dai confini su cui l'impresa è nata. Io invece qualche nome lo vorrei fare, perché vorrei far capire agli ascoltatori che non parliamo di cose astratte, non facciamo ragionamenti campati per aria. Per esempio, cioè Umberto Garassini, che era l'amministratore delegato di Bonduelle, quindi insomma conosciamo questi prodotti, perché magari queste verdurine in baratto. Cordone, possiamo Cordone, dirlo? Beh, lo deve dire lui. Giuseppe Cordone, cosa faceva? Mi occupo di tecnologie dell'informazione. Non ho capito, mi scusi. Mi occupo di tecnologia dell'informazione. Tecnologia dell'informazione. Una grande multinazionale che evidentemente Giuseppe in questo momento... Ma c'è anche Juan Lonmo, che è stato l'amministratore delegato di Corsica Ferri. Ci sono figure che vengono da esperienze di grandissimi gruppi internazionali presenti in Italia, lo fanno e magari sono tuttora impegnati, ma dedicano una parte del tempo, di capitale e di proprie risorse relazionali e di competenze per andare a incontrare, credo che Giuseppe lo possa confermare, negli ultimi 6-7 mesi centinaia e centinaia di imprese sul territorio, mandarci fisicamente. Dico, immaginate l'amministratore delegato di una grande impresa come Bonduelle che prende e va alla piccola impresa sul territorio. Lo hanno fatto e lo fanno non solo per lo spirito di istituzionale o finalizzato a spirito di aiuto, lo fanno perché si sono convinti che lì dentro ci sono delle ottime opportunità sia di investimento che di crescita. Allora, chissà se sarebbero disposti ad andare a trovare anche Ciro, perché ormai è diventato il nostro l'ospite d'onore della nostra puntata. Esatto, perché poi un ragazzo di 27 anni che si presenta subito con questo entusiasmo, con queste idee, in un settore poi tradizionale, perché poi parliamo di borse, Ciro, no? Non è che vi siete inventati la app per fare chissà che cosa. Ciro, buongiorno. Buongiorno a voi, prima di tutto. Perché sembra ormai che inventarsi le applicazioni sia diventata la soluzione a tutti i mali economici del mondo. Invece la manifattura, secondo me, è la vera soluzione a tutto. Ancora, Ciro, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, buongiorno. Sì, diciamo, non abbiamo inventato un'applicazione, abbiamo inventato però una borsa fatta di PVC, e questa al momento è una cosa che ci distingue dalla massa, e se vogliamo possiamo quasi dire di essere non gli unici al mondo, ma nel nostro materiale ci sono veramente pochi. Allora, come vi state muovendo, Ciro? Intanto avete sviluppato un bel business plan, avete già intenzione di andare sui mercati internazionali. Chi vi sta sostenendo dal punto di vista finanziario? Allora, la cosa principale è che dal punto di vista finanziario non ci sta sostenendo nessuno. Questo perché siamo cresciuti come molti ragazzi venendo da altri settori, in particolare il settore dell'edilizia, e poi con il tempo, appunto, conoscendoci fra di noi, abbiamo portato avanti questo progetto che è nato subito molto bene, soprattutto è stato apprezzato. Da lì in poi, tramite un piccolo, ma veramente piccolo capitale messo, diciamo, un po' fra di noi e autofinanziandoci ogni volta, siamo riusciti a crescere sempre di più, andando a, appunto, autosostenerci, poiché, appunto, come giustamente dicevano sia i vostri ascoltatori che gli ospiti che avete in studio, la ricerca di capitale adesso è sempre più difficile, e quindi proprio un po' per paura, un po' proprio per la nostra, non so, la difficoltà di trovare dei riferimenti che possano autofinanziarci, abbiamo step by step fatto questo progresso. Ciro, ecco. Quanto producete adesso? Possiamo dare subito concretezza alla vostra storia? Adesso siamo sull'ordine dei variati migliaia di pezzi anno, insomma. Però. E abbiamo, diciamo, in Italia una cinquantina di punti vendita, all'estero adesso stiamo per avere un circa 200, quindi sta crescendo molto, insomma. Io vorrei anche sapere come si chiama questo marchio, sai che allora, ti dico? Noi andiamo subito a guardare, Ciro, sai? Il marchio potete trovarlo tranquillamente tramite Google sul sito, si chiama TuItaly, T-O Italy. Quindi troppa Italia, ma in realtà non è mai abbastanza. Grazie Ciro, in bocca al lupo per tutto, bravissimo. Beh, Carlo, questo lo vai a conoscere. Esattamente, sì, lo voglio conoscere assolutamente, anche perché potrebbe essere un possibile target su cui investire. Volevo dire una cosa, è difficile trovare capitali, ma sapete che quando si va in banca ti continuano a dire che hanno tantissima liquidità? Allora, qual è il problema? Che c'è tantissima liquidità. No, usare un altro termine, il cavallo non beve. Sì, il cavallo non beve. Come il cavallo non beve? Quella non me l'avevi detta. La sento da Sebastiano Barisoni a Focus Economia. C'è tantissima liquidità, guardate, vi posso garantire l'esperienza di Betwork sta dimostrando che ce n'è tantissima, anche di privati, di singoli che hanno tantissimo. Il problema è che ci sono ancora troppi pochi, uno lo siamo sicuramente noi, sistemi per fare incontrare dei mondi che fino adesso non dialogavano. Cioè la piccola impresa per incontrare il capitale prima, fino a prima andava dal direttore della banca. Sì, esatto, che metteva dei dati in un database, sì, se sì, poi il credit 25, scoring non era adeguato, esatto. E invece voi cosa avete fatto? Lo faccio raccontare a cordone. Sì. Vi siete inventati, lo avete elaborato in maniera scientifica, strutturata, molto seria, un indice che piacerà molto a Nicoletta, perché si chiama l'indice del benessere finanziario delle piccole e medie imprese. Cordone, rapidamente, a che cosa serve? A presentarsi in banca per ottenere più facilmente del credito, o a una piccola e media impresa serve a qualcos'altro, avere questo bollino di qualità che voi assegnate, chiamiamolo un po' così? Sì, sì, serve semplicemente per avere un modo nuovo per presentarsi, capire qual è il mix giusto, no? Parlavamo prima della ricerca di questo mix. È uno strumento che ci permette di rendere visibile quegli aspetti, quelle peculiarità che caratterizzano le piccole aziende innovative. Ma è un'azienda che deve venire da voi a chiedere di elaborare questo indice, oppure siete voi che magari così andate sul territorio, cercate le aziende su cui potenzialmente investire e prima di farlo lo elaborate? Cioè un po' come funziona, qual è lo scambio? Può essere usato in tutti e due i modi, lo usiamo in tutti e due i modi. Possiamo fare dello scalping sul mercato, cioè la ricerca di alcune caratteristiche che riteniamo interessanti, ma possiamo utilizzarle anche per dare un bollino a chi viene per essere ascoltato, per parlare insieme a noi. Tra l'altro si chiama in inglese l'indice, no? Non è esattamente è l'indice di Goodness. Di Goodness. Allora, lo scalping non te l'aspettavi. No. Oggi, ma quante parole! Sentiamo rapidamente le ultime due testimonianze di oggi, le abbiamo fatte tante aspettare. Sentirei Sara. Sara, buongiorno da Torino, benvenuta. Buongiorno a tutti, grazie. Io ho 32 anni e lavoro da sempre in una piccola e media impresa, e mi piaceva raccontare il fatto che forse quando si termina il percorso di studi, l'università, l'ambizione più grande è entrare invece in una grande impresa. Invece volevo proprio raccontare il fatto che io ho un'esperienza ormai pluriennale in questa piccola media impresa, e che la cosa importante, la cosa formativa è proprio il valore delle persone, del capitale umano che lavora nelle piccole e medie imprese, che si sente parte di un progetto e che impara a lavorare in gruppo, in team, e a dare il proprio contributo in maniera diretta. Quindi ha fatto Sara sicuramente un grandissimo percorso di crescita professionale, oltre che umano, che riconosce pur avendo solo 32 anni. Carlo, una bellissima testimonianza. Sì, anche perché parliamoci chiaro, la piccola impresa vuol dire anche un piccolo nucleo ambientale dove lavori direttamente con l'imprenditore, lavori direttamente con chi l'esperienza l'ha fatta negli ultimi, certo, 20-30 anni, e quindi da un punto di vista formativo per i giovani è una scuola clamorosa. D'altra parte 30 anni fa, 40 anni fa i nostri genitori andavano a bottega, guardate che non è molto differente. Allora Marco non riusciamo a sentirlo, provincia Monza Brianza, stiamo chiudendo, ci mancano 30 secondi. Marco, ci ritorneremo su questi argomenti, perché qua se vanno avanti con questo ritmo fanno un evento ogni 3 mesi gli amici di Back to Work. Speriamo. Per cui bisognerà seguirli, ma anche perché a noi interessa soprattutto invece far conoscere questa realtà come sbocchi occupazionali per le persone che ci ascoltano e che ancora sono a spasso, nonostante i job act, nonostante i contratti stiano riprendendo a crescere, però c'è tanta gente che ancora è alla ricerca. Andate a guardare sul vostro territorio se qualche piccola e media impresa è alla ricerca di personale. Carlo, grazie, in bocca al lupo. Ciao, per domani. Grazie Giuseppe. Ciao, Cordone. Noi come sempre torniamo domani. Certamente, domani io abbiamo Investire Informati nella seconda parte del programma, lo ricordiamo. E vi ricordiamo che Cuore Denari è sempre aperto, quindi scrivete, mandateci le vostre mail, le inoltreremo naturalmente ai nostri esperti con Carmelo Lauricelli, regge la parte tecnica, voilà, con la barba. Con la barba, Marco Lombardo, Isotta Scenna, senza barba per fortuna, bella come il sole. Ci sentiamo domani, buona giornata a tutti.